Radio 24 Reportage. 1 ottobre, il giorno della rottura catalana, di Sergio Nava. Avui Catalunya ha guanyat molts referèndums. Ens hem guanyat el dret a ser escoltats, a ser respectats i a ser reconeguts. Avui milions de persones mobilitzades fent front a tota mena de dificultats i amenaces heu parlat alt i clar i heu adreçat un missatge al món. Tenim dret a decidir el nostre futur. E si era avanzata quando il presidente catalano Carles Puigdemont parla in diretta televisiva al termine di una giornata nera per la storia europea, catalana e spagnola. Nulla sarà più come prima nei rapporti tra Barcellona e Madrid dopo il 1 ottobre 2017, al termine di una giornata di scontri e violenze, al termine di una giornata di repressione, in Plaza Catalunya, centro nevralgico della capitale regionale, le migliaia di persone radunatesi per la notte elettorale referendaria hanno solo voglia di intonare il loro inno, el Segadors. Lo fanno col pugno alzato, in segno di sfida al governo centrale. In questo reportage da Barcellona vi raccontiamo le ore del divorzio tra Catalunya e Spagna. Ore che resteranno impresse nella memoria collettiva insieme ai circa 900 feriti tra la popolazione civile. Per cominciare però facciamo un passo indietro. Il 30 settembre, alla vigilia del referendum sospeso dalla Corte Costituzionale Spagnola e per questo vietato da Madrid, migliaia di catalani occupano fisicamente le scuole per fare sì che il 1 ottobre possano essere aperte per il voto. In Plaza Spagna, nel centro di Barcellona, Josep presidia, insieme a una cinquantina di volontari, la scuola Francesc Macià. Noi vogliamo garantizzare il diritto universale, il diritto umano al votare. Il governo della sanità vuole fare un referendum, va bene, molto bene, molta gente vuole votare sì, molta gente vuole votare no. Ma c'è un problema con il governo di Madrid, il governo spagnolo non vuole democrazia, non vuole che la gente possa espressare libremente il suo diritto. Ma noi facciamo resistenza pacifica. Se lei vuole chiusare questa scuola, noi non faremo permettere. I mossos di squadra sono venuti qui, vi hanno chiesto di andare via? Sì, i mossos di squadra, la polizia catalana sono gente corretta, gente educata, abbiamo parlato, la situazione va bene, non ha problema. Per parte di noi non ne abbiamo problema. Altra cosa è la polizia militare spagnola, ma le mossos di squadra non ne ha problema. Non la chiuderanno, questa scuola sarà un centro di votazione? Oh, il nostro obiettivo è questo, un centro di votazione. La mattina del 1 ottobre per molti catalani è segnata dalla levataccia. In tanti si presentano alle 5 ai seggi per evitare che un'ora dopo vengano chiusi dai mossos da squadra, la polizia autonomica, così come è stato loro ordinato di fare. Tra colazioni offerte e ombrelli prestati per ripararsi dalla pioggia battente, in un grande sforzo di solidarietà collettivo, ci si prepara al countdown verso le 9, ora di apertura della votazione referendaria. Intorno alle 8.30 Carrer Mallorca, una delle sterminate strade che tagliano orizzontalmente Barcellona, è già assediata da decine di persone in attesa di votare presso una delle scuole rimaste aperte. Ordinatamente si fa la fila. L'attesa è tanta. Bueno, perché sono indipendentista e voglio votare per loro, sì. Alberto e Nuria sono indipendentisti, vogliono votare sì e sono stanchi di uno Stato spagnolo che non risponde ai bisogni dei catalani. Si respira la voglia di fare la storia. Ma a pochi minuti dopo l'apertura dei seggi cominciano i primi problemi. Alla Scuola Tecnica del Trabal, la circoscrizione più grande di Barcellona con i suoi quasi 20 seggi, la fila non si muove di un solo passo. Non possiamo votare, non ci hanno informato. Dicono che ci siano problemi telematici con internet, che non sia possibile votare, si sfoga Maria Angeles. La Longa Manus di Madrid si fa insomma sentire bloccando le strumentazioni web e obbligando alla votazione manuale. Il problema dei seggi chiusi era stato risolto poche ore prima da un annuncio a sorpresa del portavoce del governo catalano Turull. In via eccezionale si decide di ricorrere al censo universale. Ciascuno potrà votare in un altro seggio della propria zona qualora il proprio fosse chiuso. E in tarda mattinata comincia ad essere evidente che non c'è solo un problema di seggi chiusi o di internet bloccato nei punti di voto. Arrivano le prime inquietanti segnalazioni. La Guardia Civil e la Polizia Nazionale stanno fisicamente intervenendo nei seggi a Barcellona e nel resto della Catalunya, rispondendo alla resistenza passiva dei cittadini con manganellate, gas lacrimogeni e calci. In alcuni casi gli agenti vandalizzano i centri di voto. Ai nostri microfoni la segretaria dell'Assemblea Nazionale Catalana, Francesca Ferreres, è sopraffatta da tanta violenza. Ma guarda, noi nella scuola dove sono io adesso abbiamo iniziato a votare 10 minuti fa e abbiamo avuto tanti problemi Abbiamo avuto tanti problemi con il sistema informatico e di notizie che ci arrivavano che la polizia è intervenuta in diverse scuole. Entrando nelle scuole, nel modo nel quale sono entrati, picchiando la gente come l'hanno picchiata, hanno dimostrato la poca capacità democratica che ha il governo spagnolo. Avete notizie quindi di tafferugli, pestaggi, insomma? Sì. Dove? In giro per Barcellona, non ti so dire esattamente dove, però sta girando su internet dappertutto. Sì, sono andati giù anche con anziani, terza età, bambini, non gliene frega di chi sia. E dopo ritardi pesanti e code infinite, le prime decine di persone riescono a votare, salutate dagli applausi festivi degli altri elettori ancora in coda. Hemos aguantado y aguantaremos lo que convenga. Come Amparo, che ha votato nel seggio di Carré Manigua e che manda i suoi saluti al governo spagnolo, colpevole di aver trattato i catalani come gli ultimi della classe. Ben vista, saluta, mentre lascia il seggio col figlio Daniel. Fuori intanto si preparano le barricate per il temuto assalto della polizia, che fortunatamente non arriverà. Va meno bene ai cittadini in coda in un seggio di Cap Guinardó, a poche centinaia di metri di distanza. Gli agenti spagnoli arrivano e portano via tutto, non prima però di aver distribuito manganellate a decine di persone, anziani compresi. Per lunghi minuti neppure le ambulanze, arrivate a prestare i primi soccorsi, vengono lasciate passare. A Radio 24 il racconto di Sergi, testimone oculare delle violenze. Quello che hanno fatto era tirare a tutto il personale, prendervi e buttarci a terra o dare un colpo. Sono persone che hanno ricevuto un colpo, persone di una certa età, 60-70 anni, no? Non sto parlando di giovani, no? E ci sono stati feriti? Sì, ci sono stati feriti, diverse persone che conosciamo, oltre a un paio di bambini o dei giovani che hanno ricevuto malattia particolare, perché logicamente quando vedevano che erano giovani ancora facevano di più. E in questo senso poi sono stato persone d'età che hanno ricevuto, erano feriti, colpi con rottura di costelle. Ve l'aspettavate? Volevamo credere di no. La sera, in una scuola d'Altra Val, fino all'ultimo teme di vedere arrivare i lampeggianti blu della polizia in assetto antisommossa, la gente si fa forza gridando «Abbiamo votato!» e lanciando la sua sfida, quella di Davide a Golia, verso i potenti di Madrid. Poco prima di mezzanotte si fanno i conti, gli indipendentisti portano a casa in condizioni impossibili oltre 2.200.000 voti, con una percentuale bulgara di sì all'uscita dalla Spagna, il 90%. Ma perché Barcellona vuole lasciare Madrid? Lo abbiamo chiesto a Joan Maria Piqué, direttore della comunicazione internazionale alla Generalitat Catalana. La Catalogna è una molto antica nazione europea, più che millenaria. Non è che siamo un'invenzione recente, non siamo una creazione della Costituzione del 78. Noi siamo una nazione molto antica, con la nostra identità, la nostra storia, la nostra cultura, eccetera. Alla fine del franchismo abbiamo fatto la scelta di pensare che lo Stato spagnolo poteva essere il nostro Stato, una Spagna democratica poteva essere anche il nostro Stato. Abbiamo lavorato tantissimo per quello. Alla fine abbiamo fatto una proposta del nuovo Statuto d'Autonomia che aveva l'approvazione dei due Parlamenti, Parlamento catalano e Parlamento spagnolo, e anche del popolo catalano in referendum. Il popolo è la suprema autorità in una democrazia, però che è stato bocciato per un tribunale, una corte costituzionale discreditata, formata da gente nominata dal Partito Popolare, che hanno applicato il loro programma politico e con quello hanno affondato quell'accordo costituzionale per il quale noi abbiamo deciso che la Spagna poteva diventare anche il nostro Stato. È per quello che c'è tantissima gente della Catalogna che hanno deciso che l'unica opzione che rimaneva era l'opzione di indipendenza. Può una Catalogna indipendente restare ancorata in qualche modo all'Europa? Risponde Ramon Tremosa, eurodeputato liberale del PDeCAT, uno dei principali partiti indipendentisti. Non puoi chiedere il riconoscimento internazionale di un nuovo paese se tu non hai fatto prima la indipendenza. Non c'è nessun caso che prima di fare la indipendenza qualcuno ti riconosca, no? Ma devo dire che nel caso catalano abbiamo ricevuto tantissime comprensioni prima di fare la indipendenza. Media globali di tutto il mondo parlano o vogliono un referendum, New York Times, The Economist, Le Monde. In Germania, io parlo con tanti politici della Germania, i tedeschi non vogliono l'indipendenza catalana, ma vedano i tedeschi che la repressione militare, la violazione dei diritti fondamentali che fa il governo spagnolo per frenare il referendum, può portare a che un 70% dei catalani vogliano l'indipendenza, che io credo che questa è la tendenza più chiara adesso, no? Quante probabilità ci sono di poter rendersi indipendenti ed entrare, rientrare nell'Unione Europea? In Catalogna ci sono 7.000 multinazionali. L'economia catalana ha un prodotto interno lordo che è più grande del Portogallo o della Grecia. Noi siamo core business dell'Europa in esportazioni e in commercio. Nessuno può espulsare la Catalogna dall'euro, dall'internal market dell'Unione Europea, perché ci sono tantissimi interessi europei. Un tema di cui si è parlato poco negli ultimi concitati giorni è quello della difficile situazione economica nella quale si trovano le istituzioni catalane. Dal 20 settembre il loro budget è stato nei fatti commissariato dal governo spagnolo, come spiega a Radio 24 Pere Aragonés, vice ministro catalano dell'economia. E l'articolo 155, che è il che permette che il governo centrale... L'articolo 155 già viene applicato qui in Catalunya, ci dice Aragonés, e viene applicato senza controllo parlamentare. Il giorno prima degli arresti dei nostri funzionari, il Parlamento spagnolo votò contro una risoluzione di appoggio alle politiche repressive. Come risposta, il governo di Madrid ha applicato l'articolo 155 senza però ricorrervi formalmente. Fino a quando il Ministero dell'Economia renderà difficili le attività dei centri di ricerca catalani, degli ospedali catalani, delle scuole catalane? Si chiede Aragonés. Noi non possiamo disporre del budget approvato dal nostro Parlamento. Per esempio, non possiamo più implementare le politiche di sviluppo industriale, scientifico, culturale. Questo è un castigo indirizzato contro vari settori della cittadinanza catalana. Ma non solo. Per ogni movimento bancario dobbiamo certificare che non sia indirizzato a favore di un referendum che è stato semplicemente sospeso. Ad oggi, lo voglio ricordare, non è stato formalmente dichiarato illegale. E anche questo ci rende difficile il nostro lavoro quotidiano. Questa è una vendetta, attacca Aragonés. Una restrizione? Questo è una specie di venganza, di castigo. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.